America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Hampstead, alla Oxford University. Mario Platero al secondo dibattito presidenziale per la Casa Bianca 2012. Mr. President, wait till let me finish. I'm going to continue. Avete sentito un dibattito aggressivo con scontri diretti, inattesi, Barack Obama da una parte all'attacco fin dall'inizio, Mitt Romney che cerca il contrattacco ma che è chiaramente meno efficace rispetto alla performance di Denver. Alla fine devo dire una vittoria ai punti per Obama, con un Romney però molto solido che si è difeso bene. Le tesi, beh, insomma, più o meno potevamo immaginarle, però Obama ha descritto generalmente Romney come il candidato dei ricchi che si nasconde in un manto da pecora. Romney ha continuato a ripetere che gli ultimi 4 anni sono stati un fallimento per colpa delle policies molto deludenti di Barack Obama. E più volte ci sono state scintille con i candidati che si parlavano addosso, ma quello che conta è il risultato politico. Che cosa hanno pensato i quasi 70 milioni di americani che hanno seguito il dibattito? Beh, Obama ha fatto bene, ha recuperato la grinta di un tempo, ha mobilitato la base, è stato pronto, e questo dovrebbe consentirgli di arginare l'ascesa decisa che Romney ha accumulato nelle ultime settimane dopo Denver e stabilizzare il confronto fino al prossimo dibattito. Cominciamo a sentire alcuni degli scambi più interessanti. What Governor Romney said just isn't true. He wanted to take them into bankruptcy without providing them any way to stay open, and we would have lost 1 million jobs. And that, don't take my word for it, take the executives at GM and Chrysler, some of whom are Republicans, may even support Governor Romney. L'apertura su Chrysler, abbastanza devo dire equilibrata, perché è Obama che parte all'attacco dicendo che Mitt Romney avrebbe causato, se fosse stato per lui, il fallimento dell'intera industria automobilistica americana. Ma Romney ha risposto abbastanza prontamente dicendo: ma sapete che cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che è stato lo stesso Barack Obama che le ha fatte fallire. Ma è stato Romney a commettere il primo errore quando si è parlato di energia. Dopo un attacco efficace alle politiche di Obama che toglieva licenze, diceva Romney, per proteggere in un caso 24 uccelli migratori, decisioni, sottolinea Romney, che hanno portato il prezzo della benzina da $1,80 a $4 al gallone, il presidente ha poi risposto con una linea di difesa piuttosto efficace, negando di aver tolto licenze se non a coloro che non le usavano. Ma Romney, ed è stato questo l'errore, invece di controbattere, sentite cosa ha fatto. There were a whole bunch of oil companies. I had a question, and the question was how much did you cut them by? I'm happy to answer the question. All right, and it is? Here's what happened. You had a whole bunch of oil companies who had leases on public lands that they weren't using. So what we said was, if you want to drill on public lands, you use it or you lose it. Avete sentito, Romney fa una domanda al presidente. Ci dica quali sono le misure che lei ha adottato, quali sono le licenze, le elenchi. Se Romney credeva di inchiodare il presidente, ha sbagliato, perché poi Obama, come avete sentito, gli ha subito risposto in termini generali, gli ha rubato il tempo e ha cominciato a riprendere il suo comizio. Lo stesso è poi successo su tasse e soprattutto su pensioni. Mr. President, have you looked at your pension? You know, I don't look at my pension. It's not as big as yours, so it doesn't well, take as let long. Me, let, me give you some, the, let me give you some advice. I don't check it that often. Avete sentito, a un certo punto Obama attacca sugli investimenti cinesi di Romney. E Romney controbatte, anzi contrattacca. Signor Presidente, le faccio una domanda. Ha visto il suo estratto di pensioni, ha visto dove erano i suoi investimenti, però a quel punto Romney non ha il tempo di finire, perché Obama risponde prontamente e dice no, non l'ho visto il mio estratto pensioni, anche perché credo che sia molto più basso del suo. A quel punto il pubblico ride istintivamente e quando Romney ha potuto finire dicendo anche lei ha degli investimenti in Cina attraverso il suo fondo pensione, a quel punto era ormai troppo tardi, l'effetto è stato inutile. Morale, la morale è chiarissima. Mai fare delle domande al tuo avversario durante un dibattito, perché un buon politico si svincola sempre e tu poi, come è successo a Romney, perdi tempo a disposizione per difendere la tua causa, non solo, ma dai tempo al tuo avversario per controbattere. Infine sulla Libia, la Libia doveva essere uno dei punti di forza di Romney, perché sono usciti degli articoli piuttosto imbarazzanti per l'amministrazione negli ultimi giorni, rivelazioni così sulla superficialità con cui l'amministrazione ha trattato la sicurezza dell'ambasciata a Tripoli e del consolato di Bengasi. E comunque Romney avrebbe dovuto attaccare in modo molto più deciso, però Cosa è successo? Che invece di essere fattuale elencando le manchevolezze operative, e posso dire ce n'erano tante, dell'amministrazione, ha cercato di suggerire che i ritardi nel descrivere gli attacchi come terroristici siano stati motivati da ragioni politiche. A quel punto ha di nuovo fornito al presidente Barack Obama in un piatto d'argento una risposta indignata. Sentiamolo. And the suggestion that anybody in my team would play politics or mislead when we've lost four of our own, governor, is offensive. That's not what we do. That's not what I do as president. That's not what I do as commander in chief. Suggerire che chiunque nella mia squadra possa strumentalizzare politicamente o deviare dalla verità nel momento in cui abbiamo perso quattro uomini, quattro dei nostri uomini, è offensivo. Non è quello che facciamo, non è quello che io faccio come presidente o come commander in chief. Poi di nuovo sulla Libia, questa volta un intervento a tre in cui interviene anche la moderatrice. Sentiamolo. You said in the Rose Garden, the day after the attack, it was an act of terror. It was not a spontaneous demonstration. Is that what you're saying? Please proceed, Governor. I want to make sure we get that for the record, because it took the president 14 days before he called the attack in Benghazi an act of terror. Get the transcript. He did, in fact, sir. Ecco, cosa è successo? Che Barack Obama a un certo punto dice, nella mia primissima dichiarazione ho detto che si è trattato di un atto di terrorismo. Allora subito Romney interviene dicendo, come ha detto nella prima dichiarazione che era un atto di terrorismo? Vediamo i transcript. E allora Obama dice, sì, prendi pure i transcript, si faccia dare la trascrizione. E Candy Crowley a quel punto interviene per fermare un attimo questo ennesimo scontro diretto, verbale, fra i due, e dice, è così, avete ragione entrambi, è vero, il presidente ha detto in questa sua dichiarazione, la primissima dichiarazione, che era un atto terroristico, mentre è anche vero, anche ragione lei, che ci sono voluti 14 giorni per formalizzare questa posizione. Poi la chiusa e l'arrivederci al prossimo dibattito. Nel frattempo Obama, secondo me, resta in una posizione di leggero vantaggio, perché ha 237 voti elettorali nella conta complessiva contro i 191 di Romney. Non credo, vi dicevo, che Romney a questo punto riesca a migliorare moltissimo la sua posizione. Certo, ha 3 settimane per poterlo fare. Per vincere le elezioni ci vogliono 270 voti elettorali. A questo punto la battaglia è sugli incerti, ci saranno gli spot televisivi, le polemiche a distanza. In fondo mancano ancora 3 settimane alle elezioni, e 3 settimane in una situazione di questo genere, di quasi parità, possono essere un periodo lunghissimo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica, che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Beyoncé sarà la protagonista del momento musicale del prossimo Super Bowl, che si terrà a New Orleans il 3 febbraio 2013. Non è la prima volta che la cantante partecipa all'evento. Nel 2004 aveva cantato l'inno nazionale. Dunque a Beyoncé dedichiamo la canzone Love on Top. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the sun whenever you're near. Every time you touch me, I just melt away. Now everybody asks me why I'm smiling up from ear to ear. But I know. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.